Eccoci con l'autore, attore Michele Santeramo che sarà in scena con Il Nullafacente al Teatro Biblioteca Quarticciolo a Roma il 17 e 18 febbraio. Michele, ben ritrovato. Ben trovati a voi, a te. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Dicevo, qualche piccolo male di stagione, ma per il resto tutto a posto. Ok. Senti Michele, lo spettacolo aveva debuttato in Toscana, ti chiedo intanto un bilancio fino a questo momento. Il bilancio è, dal mio punto di vista, molto molto positivo, nel senso che lo spettacolo crea una relazione con lo spettatore, che è una relazione molto interessante, che produce, come speravamo, produce riflessioni intorno ai temi che trattiamo nello spettacolo, quindi è molto bello farlo, è molto bello starci dentro. Ok, ce lo presenti? Allora, Il Nullafacente è il tentativo di raccontare la vita di una persona che ha deciso di fare cose in una direzione completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Lui è uno che ad una visione superficiale ha smesso di fare, ma in realtà non è così. In realtà lui fa tantissime cose, ma le fa, come dicevo prima, in un'altra direzione. Lui ha una moglie che è malata, per sua fortuna, dice lui, per fortuna di lei è una malata terminale ed è inguaribile. E quindi non c'è da preoccuparsi di nulla, no? A partire da questo paradosso, lui decide di vivere ogni momento pienamente e assolutamente, in compagnia di sua moglie. Intorno a loro, tre personaggi che sono il medico, il proprietario di casa e il fratello di lei, cercano in qualche modo di guarirli, di farli tornare dal loro punto di vista guariti, di farli tornare ad essere persone, tra virgolette, normali. Ad un certo punto forse ci riusciranno, forse no, questo poi lo lasciamo alla curiosità di chi dovesse venire a vedere lo spettacolo. Allora, rispetto a questo rapporto con il tempo, partiamo dall'inizio, ossia questo parallelo anche con la lunga ed articolata elaborazione dello spettacolo. Sì, la scrittura del testo questa volta è durata più o meno 5 anni, 2 anni e mezzo circa in solitudine, gli altri 2 anni e mezzo in profonda collaborazione con Roberto Bacci, che poi ha curato anche la regia. E il rapporto col tempo del Nullafacente è fondamentale, uno dei temi fondamentali. Il Nullafacente ritiene che l'unica ricchezza che lui possiede è il tempo, è il suo tempo. E quello che lui dice sempre, quello che mi ha suggerito, è che anche in questo mondo nel quale viviamo, se uno andasse da qualcun altro a chiedere i 100 euro, difficilmente avrebbe i 100 euro. Se invece gli va a chiedere un quarto d'ora di tempo per fare due chiacchiere, il quarto d'ora ce l'ha, no? Lo concediamo sempre un quarto d'ora, come se non valesse nulla, come se fosse una cosa alla quale non diamo importanza. Invece il Nullafacente ritiene che il tempo sia esattamente l'unica vera ricchezza che possiede e non vuole sprecarlo in nessuna maniera. Senti, il parallelo anche tra il proprio tempo e la propria attività e quella piantina di bonsai che c'è in scena. Lui dice che ha un rapporto stretto con il bonsai, perché il bonsai, dal suo punto di vista, non la facente, il bonsai è una forma diversa, nuova, non naturale, che però, nonostante questo essere non naturale, riesce a trovare vita lì dove non dovrebbe esserci vita, lì dove è strano che ce ne sia. E dal suo punto di vista, non la facente, il bonsai ha capito tutto, è dentro una forma che non è naturale, ma ha trovato una naturalezza nuova in quella forma, ed è quello che vorrebbe fare anche lui. È in una forma che non è naturale, quella del tempo nel quale viviamo, ma dentro questa forma lui vorrebbe trovare naturalezza. È la sfida che il Nullafacente si pone. E facendo queste repliche che abbiamo fatto fino ad ora ci rendiamo conto che è la sfida che a vari livelli ciascuno di noi si pone. Sono queste dinamiche di cui sto parlando, appartengono, questo stiamo scoprendo, appartengono alla consapevolezza di tutti. Tutti noi vorremmo ad un certo punto, non dico smettere di fare, ma almeno fare un po' di meno, avere un po' più di tempo a disposizione. Il problema è che poi quando ce l'abbiamo questo tempo a disposizione, visto il tempo nel quale, il mondo nel quale viviamo, questo tempo a disposizione comincia a spaventarci. Il tempo libero è un tempo che noi riempiamo di cose, perché quando è libero davvero il tempo ci mette in difficoltà, ci spaventa, come fosse vuoto. E questa è una delle difficoltà alla quale andiamo incontro, perché poi lo riempiamo sempre, pur di riempirlo, lo riempiamo di qualunque cretinata. Senti, Ecco, proprio questo rimpossessarsi del tempo e dell'attività, della propria attività, che a tuo modo di vedere, che tipo di cambiamento e di liberazione comporta per la persona? Ma il percorso è verso il proprio bisogno, e quindi liberarsi da tutte questi lacci che ci sono intorno consente di chiarire meglio, secondo me, la facente, secondo anche il mio punto di vista, di chiarire meglio qual è il rapporto con i propri desideri e saperli riconoscere, con i desideri indotti dal tempo nel quale viviamo e saperli riconoscere anche quelli, e con i propri bisogni. Il nullafacente si è liberato dalla schiavitù del desiderio, sia dal desiderio indotto sia dal desiderio proprio. Sa distinguere qual è un desiderio, sa distinguere qual è un bisogno, ed è capace di seguire soltanto quelli che sono i suoi bisogni e di conseguenza di non perdere tempo con il resto. Michele, dopo Roma il percorso del nullafacente prosegue? Sì, subito dopo si va a Napoli per altre due repliche, e poi ci sono ancora altre repliche fissate in quest'anno, che però adesso non Certo, esattamente non certo. ricordo quali siano, e poi comunque lo spettacolo continuerà anche nella prossima stagione, perché ripeto, è uno spettacolo al quale siamo affezionati molto, e che, come si è detto un po' da qualche parte, è uno spettacolo che speriamo possa avere una lunga vita, incontrando pochi spettatori per volta, avendo questo rapporto, non, come diceva Roberto, non tanto col pubblico quanto con il singolo spettatore. Michele, questa stagione teatrale, come e dove ti vedrà impegnato, oltre a questo spettacolo? Io quest'anno ho fatto, diciamo che è stato un anno molto positivo per me, oltre che per il prestigio dei teatri che hanno messo in scena i miei testi, anche per la possibilità che ho avuto di ragionare su temi che mi sono cari scrivendo questi testi. C'è stato Uomini e non, nella mia riscrittura del romanzo di Vittorini al Piccolo, c'è una collaborazione sempre attiva col Teatro Bellini a Napoli. Ci sono tanti altri progetti di cui ci stiamo occupando, ma gli spettacoli che saranno ancora in scena per quest'anno sono, oltre che il Nullafacente, questa nuova cosa che ho fatto su Leonardo da Vinci, L'Opera Nascosta, che sarà anche a Roma, tra l'altro, a marzo, Bene. per due repliche. E poi continueremo con le altre repliche degli spettacoli già in repertorio. Ci sono ancora repliche di Alla Luce con il Teatro della Toscana, con il Quare Teatro la collaborazione, diciamo, è sempre mia fortuna viva, vivissima. E poi c'è un festival che si farà quest'estate, da maggio a giugno, che anche quello mi sta occupando molto molto piacevolmente, mi sta insegnando anche tante cose, perché sono riscritture dal Decamerone, quindi ci saranno quattro racconti dal Decamerone che io sto riscrivendo. Lanciarmi in questo studio è una cosa veramente bella, divertente e appagante. Michele, per chi volesse seguirti su internet. Io purtroppo sono, come mi ha insegnato il nullafacente, sono molto poco presente sui social, eccetera. E quindi diciamo che le maggiori informazioni si possono avere seguendo le notizie pubblicate sui siti del Teatro della Toscana, del Teatro Bellini e del Piccolo in questo momento. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il Nullafacente al Teatro Biblioteca Quarticciolo a Roma dal 17 al 18 febbraio. Michele, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Grazie, grazie, grazie, a presto. Ciao. Ciao.